Ecco, allora vi do il benvenuto a nome della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta. È una biblioteca che così è attiva da 15 anni. Ci occupiamo di saggistica, di materiale locale, ma soprattutto facciamo anche tante iniziative per promuovere la lettura, per dare sempre dei suggerimenti, delle suggestioni nuove, affinché l'utente, così definito tecnicamente, il pubblico per noi, insomma, ecco, abbia la possibilità e la voglia di costruirsi un percorso di lettura, un percorso di ampliamento delle proprie conoscenze, nella convinzione che il servizio pubblico che la biblioteca fa è proprio questo, quello di garantire un ampliamento delle conoscenze e un costante aggiornamento di tutti quelli che sono i mezzi per raggiungere la conoscenza in maniera autonoma. Ecco, questa è la nostra più importante mission in cui crediamo e per cui lavoriamo quotidianamente. Monica è qui con me, poi c'era Patrick, l'avete intravisto, sì. Siamo in sette, un piccolo team, ma insomma cerchiamo di essere al servizio della popolazione in questa maniera. Einen schönen guten Abend an alle. Also die Landesbibliothek Claudia Augusta ist seit 15 Jahren tätig in der alten Mendelstraße hier in Bozen. Sie arbeitet, um verschiedene Sammlungen aufzubauen, sagen wir so, und besonders Tirolensien, Sachbücher. Wir haben so eine Webseite, ich lade alle ein, unsere Webseite zu besichtigen, zu besuchen, weil wir wirklich viele Dienste auch online machen, leisten, und vor allem sind wir auch ein bisschen stolz und haben wir fast jede Woche eine Initiative und eine Buchvorstellung. Und heute Abend ist mit uns Claudia Pulver und Katrin Bleigner, die Musik organisiert, gell, in dieser Veranstaltung. Ich bedanke mich für diese Präsentation. Und ich meine, die Bibliothek hat diese Pflicht, immer neue Wege zu zeigen, um sich die Grenzen ein bisschen zu zerstören, sagen wir so, damit alle sich miteinander besser verstehen können und auch immer Neuigkeiten zu treffen und neue Einflüsse zu bekommen von euch. Danke inzwischen für eure Teilnahme. Ti ringrazio tantissimo, Claudio, di aver accettato il nostro invito. Non era semplice perché chiaramente Claudia ha un contenuto molto personale, no? Queste poesie sono chiaramente il frutto di emozioni, di un'espressione che parte da un intimo. Sappiamo che la poesia poi è un linguaggio molto metafisico che non sempre conosce una diffusione, anzi questo è un periodo dove forse non ha un grande successo la poesia, quindi diventa difficile poterla promuovere, ma sono sicura che una serata come questa, con un accompagnamento musicale curato da Karin Pleitner, possa risvegliare anche questo interesse per una modalità di comunicazione che secondo me ha dello straordinario. Grazie Claudia, grazie Karin e grazie a tutti voi. Bene, in realtà hai già detto tantissimo tu, Valeria, per cui comunque sono molto contenta di essere qui con voi questa sera e di condividere con voi questo momento per me veramente magico, in quanto per me la scrittura è magica e mi accompagna da quando sono in realtà bambina. Io ho sempre scritto di tutto, da diari a racconti, ho dei romanzi in cantiere che chissà, forse verranno un giorno pubblicati, non si sa. E negli ultimi anni diciamo che mi sono cristallizzata più sulla scrittura di poesie, la cosa non è nata così a caso, ma sono stata dei laboratori di scrittura e sono stata ispirata a scrivere queste righe che in realtà sono, diciamo, dei flash, dei momenti di della mia vita che mi hanno colpito profondamente nel mio cuore. E qui mi rifaccio subito al titolo della serata, il dizionario del cuore, Sparfühl, che è anche il titolo di una mia poesia. Diciamo che, come già disse Max Frisch, un famoso scrittore del XX secolo, chi scrive legge se stesso. E direi che questa citazione è ad hoc per la poesia, ma comunque in generale per la scrittura, in quanto di qualsiasi genere si occupi l'autore, comunque porta molto del suo. E in queste poesie io ho raccolto e, diciamo, elaborato momenti appunto per me molto importanti della mia vita, a livello proprio del cuore. E è iniziata un po' questa avventura anche con Karin, prima a casa sua, così tra poche amiche, e poi da questa serata è nata l'idea di poter organizzare una serata così anche in pubblico per le altre persone. E diciamo che fino adesso ormai questa avventura è da un anno che va avanti con Karin, e stiamo girando un po' per Bolzano intanto, poi vedremo dove ci porterà. Una piccola nota tecnica, io sono, come voi potete sentire, di madrelingua italiana, però ho questa particolarità, non chiedetemi perché, ma scrivo in tedesco, cioè io tutto quello che ho scritto e che appunto è nei miei cassetti, che sia un romanzo, che sia, è in tedesco. A me viene da scrivere in tedesco, quindi però non preoccupatevi, perché le poesie sono in tedesco, però io le introdurrò sempre in italiano, chiaramente non letteralmente perché questo non è possibile, però cercherò di dare, diciamo, il contenuto più profondo della poesia anche in lingua italiana. Ringrazio ancora una volta la Biblioteca Claudia Augusta, Valeria Trevisan, per aver reso possibile questa serata, il Centro Trevi per averci dato proprio lo spazio fisico, e naturalmente la mia carissima amica Karin, che mi accompagna in questa avventura creativa. E grazie a voi, buon ascolto. E continuo a farti la lingua. Cosa significa essere donna, madre, compagna? Chi ha definito gli schemi, il range, i criteri che definiscono la femminilità? Oltrepassarli, o meglio, infrangerli, al fine di essere pienamente me stessa, così come sono, ecco il succo di questa prima poesia che vi propongo. Zu schwarz und doch zu bunt, zu alt und doch zu jung, exotischer Paradiesvogel, Lebensgefährtin und Mutter zugleich, zu bürschikös, um weiblich zu sein? Wo ist die Grenze? Wer hat sie bestimmt? Zeige sie mir und ich werde sie überschreiten. Schüttle deinen Kopf missbilligend und ich werde dir die Zunge zeigen. Mache eine Frau aus mir und ich werde deine Schöpfung zerstören. Sag mir, wo's lang geht und ich werde mich verlieren. Versuche mich noch enger festzuhalten und ich werde wegfliegen. Ich, dein exotischer Paradiesvogel. Estasi, Amore e passione all'ennesima potenza, in questa poesia che descrive la mera illusione di poter ricevere dalla persona amata tutto ciò che non riusciamo a dare a noi stessi. Ich würde nicht mehr aufhören, dich in meinen Armen zu halten, deinen Atem, deine warmen Lippen über meine zu spüren. Deine Erregung in deinen Armen muss ich mich nicht vollfressen, bekomme ich alles wieder zurück, was ich brauche. Die Ekstase, die ich mir nicht geben kann, und mit dir die Zeit, die trügerisch stehen bleibt. Und endlich flüchte ich nicht mehr von mir. Da ist er ja, mein Körper, in deinen Armen. Sprachführer, tradotto letteralmente, manuale di conversazione. Uso questa metafora per parlare di un amore che non ha più parole, un amore per così dire sottovuoto, sterile, che dunque non è più amore e che più che di un manuale di conversazione avrebbe bisogno di riappropriarsi del calore, della tenerezza e dei gesti di affetto che lo caratterizzano. Schon lange reden wir aneinander vorbei. Unsere Körper sind vakuum verpackt und starren in die Leere. Küsse will ich von dir, nicht Worte. Springen. Wenn du redest, will ich singen. Du schlägst Wurzeln, ich muss fliegen. Vorgeschmack, sogno premonitore. Quando si vive un momento unico per bellezza ed intensità, fino a quasi perdersi e ad annullarsi in esso, è come se la vita, per una frazione di secondo, ci facesse pregustare qualcosa di magico che la oltrepassa, anche se non sappiamo ancora che cosa sia. Ich mache Liebe mit deinen Worten. Unsere Hände finden sich und malen Figuren eng umschlungen in der Luft. Heute lebe ich, wie ich sterben möchte. Cortocircuito. Il cortocircuito di cui parlo è il cortocircuito del cuore spezzato, quello dell'oscurità totale, dove ci ritroviamo a non capire più né i segni che ci dà la vita, né quelli che ci arrivano dagli altri, incapaci ad immaginare che da qualche parte possa esservi un interruttore su cui far leva per ridarci luce. Dunkel, zu dunkel ist es hier. Ich taste mich langsam heran, stolpere über mein Herz und versuche wieder aufzustehen, während ich innerlich blute. Dunkel, zu dunkel ist es hier. Gib mir eine Taschenlampe, damit ich durch dein Herz sehen kann. Abschiedslied. Canzone d'addio. un addio molto speciale dedicato all'uomo che più ho amato nella mia vita, mio padre. Ich werde dir jetzt dein Lieblingslied ins Ohr flüstern, während ich dich sachte umarme. Du kannst mich nicht verlassen, dafür liebe ich dich zu sehr. Ach, Papa, du wirst es doch tun müssen. Endless, the end. Infinito, fine. Le parole di questa poesia cercano di creare un legame, sebbene sottilissimo, fra i due aspetti cruciali che costituiscono una storia d'amore. L'inizio e la fine, come dire, dalla dipendenza dell'oggetto amato all'impellente, ahimè, bisogno di liberarsene. Nur noch ein letzter Kuss. Geh jetzt, meine Liebe, dass du mindestens 2-3 Stunden schläfst. Bloß nicht umdrehen jetzt. Deine Augen sind leer. Deine Lippen schmecken mir nicht mehr. Nur noch diese weiße Leinwand. Vor dir. Vor mir. Sanft und weich, leggera e morbida. Descrivo a me stessa ciò che più propriamente mi caratterizza, dalle innumerevoli magliette rosa, le mie dita filiformi, alla leggerezza del mio cuore di bambina. Sanft und weich sind die Konturen meiner großen Ohren, die rosa T-Shirts in meiner Schublade, meine schmalen Finger. Sanft und weich ist diese wohltuende Gedankenlosigkeit, wenn du mich küsst. Sanft und weich ist mein Herz, wenn es vor Liebe brennt. Festhalten, trattenere, una riflessione su due temi cruciali nella vita di ognuno di noi, trattenere e lasciare andare, o più precisamente, sul bisogno di trattenere e sulla fatica di lasciare andare. Ma non aspettatevi da questa poesia una risposta al dilemma, perché in realtà non ce l'ha. Festhalten, deinen Blick, meine Schmetterlinge im Bauch, unser zweites Leben. Festhalten und dann wieder loslassen. Festhalten, deine langsamen Bewegungen, wenn du mich berührst, unser Hyperventilieren. Diese Fahrt ins Nichts festhalten und dann wieder loslassen. Festhalten, meine Angst, die Illusion, dass du mich geliebt hast für das, was ich bin und nicht für das, was du von mir willst. Festhalten und dann aber nicht mehr loslassen. Disco Kugel, balla sul cubo. Anche questa sono io. Ballare fino a barcollare, non sentire più nulla, se non il suono rimbombante della musica che arriva dritto fino allo stomaco e sentirmi pienamente me stessa. Meravigliosa. Kein Licht, das mich entblößt. Keine Worte, die ohnehin leer sind. Keine Blicke, die wehtun, nur noch Dunkelheit, die mich liebevoll umhüllt, Töne, die meinen eingefrorenen Körper vibrieren lassen, Emotionen, die mich von den Scheintoten erwecken und diese wohlige Wärme, die meinem hungrigen Herzen zuflüstert, so wie du bist, bist du wunderbar. 547,5 Tage, 547,5 giorni. Sono i giorni che corrispondono a un anno e mezzo. Sì, li ho contati tutti, uno per uno, ripensando a tutto l'amore che, durante questo seppur breve periodo, ha saputo darmi una meravigliosa creatura a quattro zampe, il mio indimenticabile micio, trovato durante una fredda notte su una strada sterrata nel cuore della Puglia. Lui una manciata di pelo rosso su pelle e ossa, più ossa che pelle, per poi diventare uno splendido esemplare felino e, a tutti gli effetti, il re della casa, disastri compresi. Questa poesia mi è scaturita dal cuore pochi giorni dopo la sua scomparsa, avvenuta in gennaio. Tage plus 182,5 Tag dazu. Das ist alles. Ein zusätzlicher Tag stand dir nicht zu. Anderthalb Jahre zusammen, so eine kurze Zeit und doch so lang, weil wir uns alles gegeben haben. Anderthalb Jahre zusammen. 365 Tage plus 182 und ein halber Tag dazu. Augenschwanz, o come disse Oscar Wilde, posso resistere a tutto tranne alla tentazione. Un'ironia sul potere del fascino femminile che da sempre esercita sull'essere maschile, ma non tutti i sogni hanno le gambe lunghe e le calze a rete. Lange dünne Beine, Strumpfhosen in jeder Farbe, mal sexy, mal ganz verspielt. Männerträume, wo man nur hinsieht. Man sieht ja deine Beine nicht. Wieso versteckst du sie überhaupt? Ich bin eine Frau, das stimmt. Aber Strumpfhosen mag ich überhaupt nicht. Punkt. E stiamo arrivando alla fine. Love makes wishes come true. Il rosa e il nero. Due colori apparentemente in contrasto fra loro, così come spesso si presentano gli eventi della nostra vita, eppure vicini nel credere che, come diceva quella frase stampata su una maglietta a me molto cara, love makes wishes come true, l'amore realizzerà ogni nostro desiderio. Pink Fabulous Girlie, Hungers nach Liebe, Hungers nach dir selbst, mal pink zum Fest des Lebens, mal ganz in Schwarz zu deiner verborgenen Trauer, so wie dein Herz, das zwischen Leere und Fülle schwebt, bombastischen Gefühlen und lähmender Nüchternheit. Auf der hastigen Suche nach anderen Herzen, sie zu berühren, mit ihnen zu verschmelzen. Don't worry, girlie, love makes wishes come true. e siamo giunti alla conclusione con Wenn heute morgen ist, se oggi fosse domani. C'è un giorno in cui tutti i sogni del nostro cuore si avvereranno e quel giorno dicono è sempre domani. Ma tu non credere a quello che dicono, vivi i tuoi sogni adesso, perché oggi è già domani. Ruhig jetzt, schlaf. Lass mich träumen von einem Morgen ohne Abhängigkeiten. Zweifel, die Gestalt bekommen. Geborgenheit, die ich mir nicht geben kann. Vertrauen, dem ich schon ewig um seine Hand bitte. Ruhig jetzt, schlaf. Lass mich träumen, dass heute Morgen ist. missionario del cuore, vi ringrazio per la partecipazione, grazie. Grazie.